Prova. E prova te così, se a spostassi in questo modo si fa. Bene. Provo io così, a spostassi funziona ancora? Beh, andiamo. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Direttamente dalla galleria San Lorenzo in pieno centro di Montevarchi, stasera... La nostra stanza è ben affollata, abbiamo ben tre ospiti davanti a noi. Fumino, raccontaci un po' chi sono. È proprio così, Julian, sono degli ospiti particolari perché sono una nuova realtà del calcio montevarchino che rappresentano anche loro la montevarchinità di cui noi tanto andiamo alla ricerca. La regista di stasera, perché stasera puntata rosa, puntata tutta al femminile, è niente poco di meno che Lina Wertmüller. Quindi io direi un grande applauso per una regista di tanta importanza. Benissimo, perché i nostri tre ospiti sono di genere femminile, il che per la nostra trasmissione è una cosa piuttosto rara, visto che solitamente c'è questo luogo comune per cui intorno al calcio si parla e si vive la passione più che altro tra uomini. In realtà parliamo appunto di una nuova realtà montevarchina, parliamo della squadra femminile dell'Aquila 1902. Abbiamo qui davanti a noi tre esponenti della squadra che adesso si presenteranno dicendoci, tanto per iniziare, il loro nome, cognome e ruolo in campo. Ciao a tutti, mi chiamo Stefano Ugolini e sono il centrocampista di questa squadra, nonché capitano. Buonasera a tutti, io sono Elisa e sono un difensore dell'Aquila femminile. Ciao a tutti, sono Alessia e sono un esterno. Benissimo, allora ragazzi, io vi faccio la prima domanda, poi decidete voi se rispondere tutte e tre, se rispondere singolarmente. Allora, la mia curiosità primaria è questa: com'è che una ragazza decide di appassionarsi al calcio tanto da voler giocare e far parte di una squadra? Allora, è da 2002 che gioco a calcio. Ho scelto il calcio perché fin da piccina le bambole le avrei buttate in sondo. Giocavo maschi nel campo dei prete, le bambole, giochi da donna mai visti. Poi ho iniziato il calcetto, calcio a 5, e poi da lì un giorno mi hanno chiamato questi due signori qua dietro e ho detto mi butto, tanto ormai l'età è quella che è, sì che basta. Anche io sono sempre stata appassionata del calcio fin da quando ero bambina, grazie anche a mio fratello che comunque mi ha sempre incoraggiato per questo sport. Ho sempre giocato nei miei amici senza... non c'è mai stata distinzione fra maschi e femmine. Anche io ho iniziato questo percorso calcisti a 11, 4 anni fa. Da 2 anni faccio parte dell'Aquila femminile. E io invece, diversamente da loro, la mia famiglia era un po' contraria all'inizio a questa scelta. Infatti ci ho messo un anno per convincerli e anche se fin da piccola ho giocato con il mio gruppo di paese nei campetti vicino allo stadio o comunque in quelli dell'oratorio. Più che altro sono stati i miei amici, il gruppo dei miei amici a appassionarmi a questo sport, poiché siamo un gruppo a prevalenza maschile più che femminile. Da 4 anni che gioco e è uno sport che mi appassiona molto. Hai un'altra domanda, siccome io sono un appassionato di pallacanestro americana, no, dell'NBA, e nell'NBA, oramai sarà 10 anni circa, hanno creato anche una lega femminile, siamo alla WNBA, dove sono andate a giocare delle professioniste di basket che solitamente smettevano dopo i college, e la cosa ha avuto un sacco di interesse, ha riscosso un sacco di interesse negli Stati Uniti. Il calcio italiano effettivamente a livello di Serie A, apparentemente, almeno per un ignorante come me, non ha lo stesso livello di attenzione che ha il calcio maschile di Serie A. Ora, per voi giocatrici, avete un esempio di calciatrice o di calciatore al quale vi ispirate, vi siete ispirate, oppure quando scendete in campo vi viene da falle su mosse o qualcosa di genere? Elena Linari è un difensore della Fiorentina e da 2 anni fa parte anche della nazionale italiana femminile. E per agganciarmi alla domanda di Julian, un'altra domanda che vi faccio io per entrare un po' più ancora dentro nel profondo. Com'è che si sceglie il calcio come sport da praticare? Perché poi forse siete anche abitué dello stadio, nel senso che andate a vedere le partite, magari andavate a vedere la Serie A piuttosto che il Montevarchio o un'altra squadra. Però, a parte questo, com'è che una passione si trasforma in una cosa che poi si fa? Tra l'altro è una scelta, come ci ha detto Alessia, impopolare in Italia, a volte, tra l'altro, per le femmine è osteggiata, come un po' è successo proprio a lei. Quindi com'è che si sceglie il praticarlo poi il calcio? Io parlo per me stessa, diciamo che ho un pochino più di anni di loro, e, diciamo 20 anni fa dove abitavo io c'era campi e basta, diciamo. Sicché bene o male tutti gli amici erano lì, pallone e via, non c'era canestri, reti, bene o male tu inizi in quel modo lì. Poi ti piace sempre di più e penso sia da questo. Io più che altro perché ho sempre avuto un gruppo che le femmine sono sempre state molto antisportive, quindi non mi hanno dato un buon esempio di una danza, una ginnastica, eccetera. Poi ho provato anche sulla mia pelle molti sport, quasi tutti più o meno, che non mi appassionavano mai quanto il calcio. Poi la scelta per giocare in Val d'Arno è da poco una realtà, quindi in passato non avevo possibilità, e da quando poi è nata la squadra femminile, dopo aver convinto appunto i miei genitori, sono riuscita a raggiungere questo obiettivo. Io e Alessia facciamo parte dello stesso gruppo e pertanto i motivi sono più o meno gli stessi. Anche io come lei ho provato quasi tutti gli sport e non c'è mai stato uno che mi ha preso così tanto da convincermi per andare avanti, per continuare a giocare. L'unica passione che ho avuto e che ho continuato a coltivare è per l'appunto il calcio. E per fortuna, dico. Ebbene, allora, questa decisione è presa e le cose sono andate avanti, tanto da esservi ritrovate a giocare nella serie D femminile. E mi sembra già un risultato interessante. E non solo questo, ma vi siete ritrovati a farlo con una maglia che ha comunque molta storia nel calcio valdarnese, la maglia del Montevarchi. E quello che vi chiedo adesso è una cosa proprio emozionale. Cosa avete provato la prima volta che avete indossato quella maglia in una partita ufficiale e la prima volta, se non è stata la stessa volta, che siete entrate in campo al Brilliperi per giocare una partita? Penso di non aver mai camminato storta in quel modo, ho iniziato a piangere e boh, non me lo ricordo più. Dai Stefania, non fare la reticente. Eppure anche tu, salendo quelle scalette la prima volta, avrai sentito un'emozione particolare. E forse, non lo so, come ci hanno detto altri calciatori come Bigliazzi, quindi con un passato e una carriera molto importanti, l'odore dell'erba quando si scende in campo è meglio del tappeto di casa mia. Contrariamente a altre maglie che ho indossato, quella dell'Aquila Montevarchi è stata più parte di me. Ho provato un'emozione che comunque non si può descrivere a parole, anche perché è la maglia, diciamo, di casa mia e quindi è come giocare in casa per l'appunto, e Brilliperi è come una casa. Per me è stato un onore indossare questi colori in quanto l'ho sempre seguito fin da piccola, quindi quando ho sceso per le scale anche lo stesso sottopassaggio e tunnel mi hanno emozionato, in quanto era una realtà che non avevo fino ad allora provato e vissuto, come campo molto diverso da quelli che avevo visto fino ad allora, e sono onorata di giocare in un campo del genere, in quanto nel mio campionato campi così non se ne vedono, anzi tutt'altro. Ma rispetto appunto all'esperienza, come te già hai detto, insomma, che l'avevi seguito fin da piccola, non so se anche per voi due era capitato di andare a Brilliperi a vedere la partita, ma nel caso tuo cosa ti ricordi? Cioè in che periodo era? Che sensazione avevi andando a vedere la partita? Ero piccola e ci andavo con mio fratello e mi ricordo più che altro la passione dei tifosi che avevano verso questa maglia, e la curva sempre piena, lo stadio sempre pieno, cosa che è un sogno che ancora purtroppo noi non abbiamo vissuto e che ci farebbe molto piacere vivere, insomma, del tifo che purtroppo la domenica non è come quando ci sono maschi, diciamo. Certo Fumino, effettivamente si tratta di una realtà appena nata, giovane, che però avrebbe bisogno di un seguito, non voglio dire paritetico perché magari è complesso, però in aumento indubbiamente rispetto a magari quelli che sono i numeri attuali, ricordando che comunque si tratta di una realtà in via di sviluppo, in divenire. Proprio così, Julian, come dici tu, la realtà femminile a Montevarchi è nata da pochissimo e è in via di sviluppo, però come tutte le cose che sviluppano ci auguriamo che vada sempre a crescere fino al suo massimo, diciamo, quello che di più può ottenere. per fare questo magari ci vorrebbe anche che qualcuno venisse incontro ai Montevarchini, ad esempio non facendo giocare le femmine nello stesso giorno dei maschi, perché così magari, che ne so, qualche persona in più andrebbe anche a vederle. Sì, effettivamente a volte probabilmente basterebbero dei piccoli accorgimenti che magari possiamo anche permetterci di suggerire alla federazione in quanto utenti, perché tutto sommato comunque noi che comunque seguiamo l'Aquila maschile, magari, perché no, potremmo avere anche voglia di andare a vedere l'Aquila femminile, quindi dateci l'occasione di farlo in un modo o nell'altro, venendo incontro anche ai tifosi e anche alle giocatrici, magari a loro volta potrebbero aver piacere di venire a vedere una partita in Montevarchi. Ad esempio, vi domando, quest'anno in Montevarchi è tornato a giocare con San Giovanni, magari vi sarebbe piaciuto essere ai derby? Noi ci siamo state soltanto in Coppa Toscana, perché in campionato non ci siamo potuti essere proprio perché appunto giocavamo. Ci è dispiaciuto non esserci, data la vittoria. E quindi sì, vorremmo chiedere alla federazione se magari si potrebbe giocare anche in orari distaccati, in orari diversi. Ora, noi non siamo sicuramente seguiti da tutto il pianeta calcistico nazionale, però ci sta che magari anche d'uno per sbaglio ci possa anche sentire e magari pure ci ascolti, Fumino. Ci sarebbe da auspicarlo questo, e staremo a vedere, chi lo sa. Mentre invece, tornando ai derby, ora vi fa una domanda un po' stronza, però se l'ha detto e non si faceva, invece io ve la faccio. L'avete giocato voi due giorni fa? No, ieri in realtà, perché stiamo registrando ed è lunedì. Qualcuno di voi ha anche sbagliato un rigore? Ce lo vuoi raccontare? Vabbè, raccontateci dai com'è andata la partita. Alla fine comunque, ecco, più che altro non tanto dal punto di vista del risultato, diciamo dal punto di vista dell'emozione, perché comunque è sempre il derby tra San Giovanni e Montevarchi, è sempre il derby del Valdarno. Magari voi come giocatrici l'avete sentito in un modo diverso rispetto alle altre partite, oppure è una partita come le altre? No, è la più sentita di tutte, inutile sta gingilla. Non tu la sei, cioè la senti già l'anno prima, è un sentirla sempre, inutile. Arrivi a qui giorno e poi succede anche questo, però hanno da tornare qua. Tra l'altro, io da tifoso ti posso dire che ora quest'anno, vabbè, Montevarchi ha vinto il derby a San Giovanni, però io per 10 anni stavo a San Giovanni di Castro, venivo a vedere Montevarchi, sono perse tutte, quindi nel senso ci sta anche di perdere un derby. Speriamo che il ritorno possa andare meglio, però insomma nella storia recente di Montevarchi sono andati male quasi tutti. Quindi va bene, nel senso, una cosa che ci sta. E dal vostro punto di vista invece c'è stata questa sensazione, questa emozione di partita diversa? Soprattutto com'è che ve l'hanno caricata, o quantomeno ve l'ha caricata il contorno cittadino, societario o familiare, non so? Ovviamente è una partita molto sentita e che ti porta anche le notti a non dormire o comunque a ripensare sempre a questa famosa partita, in quanto io vengo da quella squadra, quindi sono sempre emozioni sentite ancora di più rispetto alle mie compagne, in quanto gioco contro persone con cui ci ho giocato per 2 anni consecutivi, quindi la conosco per quella realtà. La carica c'era tantissima, la voglia di vincere c'era. Secondo me si è dato il massimo, poi ovviamente gli errori sono venuti, cioè ci stanno una partita e quindi purtroppo è andata così. Però a livello di emozione è sempre la partita più emozionante di tutte. Come dicono i cronisti professionisti, Fumino, il calcio è anche questo. E Stefania, dai, non darti pena, anche se hai fallito un calcio di rigore in un derby, pensa che Tiziano Casucci, che è stato nostro ospite qualche settimana fa, ancora si ricordava vivamente di un rigore sbagliato di 30 anni fa, quindi senza conseguenze perché poi la partita fu vinta, però insomma comunque se lo ricordava, quindi non preoccuparti, e sono cose che accadono a chi gioca a calcio. E appunto, tornando al giocare a calcio, voi che giocate ad uno sport per la quale, ad esempio, almeno io nel mio vissuto ho giocato a calcio da bambino, ho in testa il giocare a calcio fra maschi, quindi quello che succede in uno spogliatoio, la goliardia, gli scherzi, l'affiatamento che c'è in uno spogliatoio. E però voi che fate parte dell'altra parte dello specchio in questo mondo, raccontateci un po' la vita quotidiana della calciatrice, ad esempio all'allenamento, le scene di squadra, gli scherzi sotto la doccia, non lo so, insomma qualcosa. Gli scherzi, come ci sono nelle spogliatoie dei maschi, ci sono parecchi anche nelle spogliatoie delle femmine, come per esempio buttarsi addosso lo shampoo con cioè rovesciarsi addosso una bottiglietta di shampoo mentre l'altra si sta lavando il capo, nascondere le scarpe, nascondere le borse, cambiare dall'acqua calda all'acqua fredda in un secondo. Sapete chi è Ivano? Sì che lo sappiamo. Sapete conoscere mutande di tutte le giocatrici? No, questo non si sapeva. E com'è che le conosce? Perché mezze vanno a finire insieme alle magliette, calzini e quindi... Sì, per chi non è di Montevarchi, Ivano è il custode dello stadio Brilli Peri, nonché factotum, nonché quello che ci serve la grappa alla fine del primo tempo ai bar, se non erro. Anche prima della partita, se tu gliela chiedi. A noi ci porta il tè tutte le sante domeniche. Perfetto, quindi insomma Ivano magari nella sua vita ha avuto un sacco di sfortune, tra le quali quelle di frequentare gli spogliatoi maschili. Magari ora, da quando c'è la squadra femminile, sarà un attimino più contento. Io ad esempio ho una bruttissima esperienza nello spogliatoio di Brilli Peri. Durante un concerto di Modena City Ramblers, e non c'entra assolutamente niente il calcio, ho fatto l'Ivano della situazione, perché entrai nello spogliatoio prima del concerto e mi sono trovato davanti, come mamma l'ha fatto, il violoncellista di Modena City Ramblers. È un umone bello grosso, è uscito dalla doccia e me lo sono proprio trovato davanti. E io da lì, nel senso, la voglia di rientrare negli spogliatoi in generale mi è un po' passata, per quanto l'abbia anche frequentato. Ora magari Ivano, non lo so, lui si tapperà ovviamente gli occhi, come è giusto che sia per un gentiluomo, però sicuramente per lui sarà sempre meglio portare un tè a voi e portarlo a giocatori. E un'altra cosa che mi viene la curiosità di chiedervi per quanto riguarda le differenze fra il calcio maschile e il calcio femminile sono ad esempio quelli che sono gli infortuni in campo, oppure magari le situazioni più normali, vale a dire i calci di punizione con la barriera, dove siamo tutti abituati a vedere gli uomini che si proteggono le parti basse, mettiamola così. Una ragazza quando è in barriera cosa si protegge? Si protegge qualcosa? Non si protegge niente? A cosa pensate? Cos'è che più vi intimorisce? Le parti alte, che si separa se no, e la faccia. Una curiosità: gli arbitri che arbitrano le vostre partite sono arbitri uomini, arbitri donne, in egual misura, più donne che uomini? Ma abbiamo trovato più uomini e donne finora. E questo è anche inevitabile, perché comunque in realtà anche nel calcio maschile ultimamente si inizia a vedere le guardaline donne, se non erro, o anche gli arbitri, però è una rarità, quindi mi immagino che comunque gli arbitri che la federazione manda siano, nel loro carnet di potenziali arbitri da mandare, siano più uomini che donne. Venendo ad un altro piccolo argomento che noi trattiamo spesso, è quello della montevarchinità. Noi pensiamo che attraverso le memorie, i ricordi e le pratiche attorno all'Aquila Calcio si possa anche indagare l'identità cittadina. Ora, voi avete giustamente raccontato di quelle che possano essere state le emozioni e le sensazioni di vestire una maglia con la storia pari a quella del Montevarchi. In realtà percepite anche un sentimento della città, o quantomeno degli addetti ai lavori e delle strutture, di passione rispetto alla maglia stessa che voi indossate? Nel senso, pur giocando nell'Aquila femminile allo stesso modo di un giocatore dell'Aquila maschile, si percepisce la montevarchinità? Che ne so, il maschile è chiaro che c'è la gente, ne discute tutta la settimana nei bar, la gente si organizza per andare in trasferta, eccetera, eccetera. Ora, per voi è inevitabile che sia inferiore questa cosa, però secondo voi ci può essere o c'è un contorno di appassionati? No, lo sento poco. Ma è, lo so, è vero, in effetti è così. No. Però. Perché non si sente la sindaca se ci fa un barrettino di Montevarchi femminile? Almeno la gente ne parla tutta la settimana e poi la domenica viene lì. Sì, perché comunque in effetti la montevarchinità si esprime parecchio e barre, potrebbe essere un'idea. Non perdiamo di vista il fatto, come abbiamo detto prima, che la realtà femminile non è una realtà nuova, è una realtà giovane, e non è che da 0 a 100 è il Real Madrid con il seguito del Real Madrid. Ma però, se questa realtà riceve il sostegno via via di un po' tutti gli addetti ai lavori e tutti gli addetti al caso, montevarchini compresi, magari fra un po' di anni non saremo più a parlare di una scarsità di vicinanza, ma invece saremo magari a parlare di una vicinanza maggiore di quella che è oggi. Uno dei temi di cui si parla tanto a Montevarchi è quello relativo al rinnovamento delle strutture dello stadio o addirittura a un potenziale stadio nuovo. Secondo voi potrebbe aiutare anche a sviluppare maggiormente l'interesse intorno alla vostra squadra? Uno stadio nuovo dove si possa pensare ad un bar dello stadio, magari vissuto 7 giorni su 7, boh, chissà, un ristorante o chissà cos'altro? Potrebbe essere un qualcosa di interessante secondo voi per sviluppare la vostra esperienza? Avete un'immaginazione, un augurio al riguardo oppure boh? Io l'immagine dello stadio di Firenze, sicché è tutti sotto e vivere quell'emozione ti dà anche passare sotto le tribune e c'è un barrettino, la facettina viola, a vedere un barrettino con lo stemma di Montevarchi, avere, non so, un negozietto dove vende due sciarpine, sarebbe tutto una cosa più... che ti porta gioia, ti incita a venire lì a vedere, anche le basta. E allora anche voi state passando dalla graticola del volo dell'Aquila e anche a voi in qualità di calciatrici tocca la domanda di rito rivolta a tutti i calciatori e da oggi anche a tutte le calciatrici che arriveranno nei nostri studi. Avete un rito scaramantico particolare che adottate prima di una partita? Una per uno, forza, ce l'avete o no? E se ce l'avete, qual è? Allora, io sono una persona molto scaramantica, quindi ne ho più di uno, a partire dalle stesse mutande, a partire dal parassinco destro che ha un particolare, tralascio perché magari porta anche sfortuna a dirlo, quindi è diverso dal sinistro. Poi un rito particolare l'ho con la mamma di Elisa, che è qui presente, che la domenica prima della partita si chiamerebbe, penso lo conoscano tutti, levare il malocchio. Che consiste? Lo spiego? Certo. Che consiste nel riempire un bicchiere con l'acqua e... Un piatto con l'acqua e con l'olio, fare cose sue che io non lo so neanche, dopodiché insomma prendere l'acqua e buttarla addosso, e questo leverebbe in teoria, dice, la sfortuna. E io l'ho provato sulla mia pelle e funziona, quindi è un rito che continuo ad avere. Quindi il volo dell'Aquila rivela i misteri, sappiamo quindi che c'è anche una piccola dose di magia dietro agli eventuali risultati dell'Aquila femminile. Proseguiamo comunque con i vostri riti scaramantici personali. Se mangi a casa bisogna bere un po' di vino, quando vado in trasferta non bevo, cambia qualcosa. E cambia in negativo? Sì, mi ci vuole un po' di vino. Ma guarda, c'è chi sostiene ad esempio Bartali o Coppi che andavano non si può bere, ma io bisogna lo beva perché non ci riesco a mangiare differente, che devo fare? Ripeto, c'è chi sostiene che Bartali o Coppi andavano con le borracce piene di vino. Oppure io avevo un amico quando giocava a pallanestro e si beveva un fiasco di vino prima della partita e correva tantissimo dopo. Quindi boh, il vino magari potrebbe anche essere un integratore naturale che funziona. Io solitamente mi metto sempre prima la scarpa destra della sinistra e quando scendo dal letto scendo sempre il piede destro e il piede sinistro, perché sennò inizia male la giornata e quindi di conseguenza inizia male anche la partita. Il che è anche abbastanza difficile da ricordarsi la mattina, tipo di alzarsi sempre lo stesso piede. Ci sto sempre attenta, anzi se a volte scendo nel sinistro... Avviamoci verso la conclusione, così vi liberiamo da questa tortura del volo dell'Aquila. Un'ultima domanda, rispetto appunto alla vostra carriera calcistica, come vi vedete da qui a un anno, due anni, mettiamo 3 anni come Cilo, sempre nell'Aquila, magari cresciuti a livello di giocatrice o magari avete anche il sogno di poter giocare in qualche altro posto più in su? I miei sogni finiscano su Bella e Vecchia. Perché smette di sognare? No, finché mi regge le gambe, poi l'ultimo giorno l'ho promesso, l'attacco al palo della porta e vo via. Il sogno, come ogni calciatore, è ovviamente raggiungere i massimi obiettivi, cioè la Serie A che da poi esistente anche in femminile, e la nazionale, ovviamente sono sogni che da una realtà piccola come Montevarchi sarà difficile raggiungere, però ovviamente sono sempre sogni. Da qui a 3 anni spero che l'Aquila abbia fatto un grosso salto in avanti, quindi almeno come minimo arrivare in C sarebbe... almeno fra 2 anni in teoria l'obiettivo della società sarebbe questo. E insomma dai, allora ci auguriamo che in 2 o 3 anni la C femminile sia appaiata da quella maschile, così siamo tutti in C e ci divertiamo tutti di più. Anche io concordo con Alessia e spero che 2 anni sono anche troppi, si spera l'anno prossimo adesso è già in C. Quindi ancora prima delle possibili previsioni. Ottimo, sempre positivo sarebbe bruciare le tappe. Benissimo, allora io colgo l'occasione per ringraziarvi, è stata veramente un'esperienza nuova anche per noi, positiva, speriamo di avere ospiti in futuro altre vostre colleghe, perché no, e magari di festeggiare la prossima promozione dell'Aquila già dall'anno prossimo, no Fumino? Sì sì, auguriamoci tutto il meglio per l'Aquila, sia femminile che maschile. E ringraziando tutti gli ascoltatori di Radio Big World, diamo il saluto alle nostre tre ospiti di stasera, Elisa, Alessia e Stefania. E ringraziamo ovviamente la nostra regista incredibile, bravissima anche stasera, Lina Wertmüller, che ci ha diretto in maniera ineccepibile. Grazie a voi e ciao a tutti. Mi raccomando, quando i Montevarchi va via lontano, venite da noi. Ciao a tutti, grazie, è stato un grande divertimento. Se l'avessero fatto farlo, mi viene di buttati a me. Forza Monti! Che devo fare? Ma qualsiasi cosa. Lo strillo! Ho sbagliato il rigore ieri. Ma l'avete in difficoltà così? Non cancellare, è vero. Ma è quella ragazza di qui? Di Firenze. Perché c'è una ragazza che passa e parla a me, è giovane la Firenze. È di Milano, sì. Una ragazza giovane. Eleonora Golini. È parente, forse di un ferroviere. Voi non siete di Montevarchi? No, Mercatale. Te, Mercatale e te Montevarchi. Posso dire prima c'era San Giovanni o prima c'era San Giovanni? No, tu lo puoi. Però non posso dire quando c'era la maglia di San Giovanni, non ne frega nulla. Sì, secondo... come Freddie Mercury. Il bando brucia. Che buona. Sì, a volte probabilmente basterebbero piccoli accorgimenti. No, in questo caso no, sono George Michael, tipo Freddie Mercury, poi non era morto Freddie Mercury. Ma meno questo mi racconta. Sì, sei stronzo proprio. Che vuol dire goliardia? Quando goliardi una stronzaggine. Alto, basso, per male mi ha detto basso, perché io non sapevo dirgli. Non si erano detto le voci. Mi ha fatto un pliata? Sì, se ne c'è capito. Non faccio. Te lo giuro. Praticamente. Ecco, dimmela. Grande. Hai risposto a quella patria. Questo. Come se ti avessi marcato il rigore ieri. Proprio. Per me l'ha segnato.